Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Si dice che le parodie non siano fatte per irridere qualcuno, ma per confermare la fama e l'importanza di chi viene preso di mira. Essere l'oggetto di una satira è una vera e propria benedizione, anziché qualcosa di cui dispiacersi. E certamente non se ne è mai dispiaciuta la protagonista di questa parodia, la donna che svetta al centro, all'incrocio dei magnifici destini che vi stiamo per raccontare. Quella! Che bella bambina! Chi sei? Mi chiamo Donatella. Donatella? Sì. Quella è una bella punk, eh? Sei proprio una bella panchina, eh? Sì. Ecco, quella, come ti chiami? Donatella? Donatella. E di cognome? Rettore. Rettore. Donatella Rettore. Donatella Rettore, hai capito? Combinazione. Combinazione, ciao. Pensate. Ciao. Ecco, ecco. E cosa vuoi fare da grande? Volevo fare la cantante. Ma che brava questa bambina, eh? Questa panca. Lo sai, che io so tutte le canzoni della Donatella Rettore. Ma brava, sai tutte le canzoni, sì. Pensate, hai capito? Ho capito. Non hai capito? No, no, sì. Forza. Te la faccio... Vergogna. Si vergogna, veramente. Sì. Ecco, prova, forza. Dammi una lametta che mi taglio le vene, e fa meno male. Mi fa so meno male che un trapianto di renne. Bravissima! Ecco, bene, veramente brava. Ecco, adesso andiamo avanti però. Però bisogna andare avanti con la nostra... Ecco una piccola scolaretta sui generis, una tenera bambina delle elementari alle prese con canzoni ben diverse da quelle che di norma si cantano alle recite scolastiche o allo Zecchino d'Oro. E questa bimbetta, guarda un po', si chiama proprio come una cantante coraggiosa e irriverente. Una vera provocatrice, una donna strepitosa che è stata sempre un passo avanti rispetto alle tendenze in fatto di musica, di moda e di arte in generale. Lei, naturalmente, è Donatella Rettore. È più facile la mediocrità che il genio. Il genio è sempre scomodo. Sono scomodissima. Ma io non sono una poltrona, per cui mi si è richiesto di essere comoda. Se fossi una poltrona sarebbe un difetto, ma sono un artista deve essere scomodo. Di certo, Donatella Rettore in tutta la sua carriera non si è mai comodamente seduta né sulle poltrone né sulle convenzioni. Ha sempre ostinatamente inseguito un'idea di diversità, di ribellione ai canoni tradizionali. Non le è mai importato di essere accomodante, ma ha squarciato decine di volte la pesante tela del conformismo. E lo ha fatto rigorosamente, a colpi di lamette. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Diventa bianca questa notte da falene. Che mi taglio le vene. L'anticonformismo di Donatella Rettore non nasce certo a caso. Che cosa può succedere, infatti, a una persona che sia costretta a ricevere un'educazione molto severa? Beh, i casi sono due. O il malcapitato cresce integerrimo e perfettamente inquadrato, per non dire prigioniero delle maglie del perbenismo borghese, oppure fa di tutto per uscire dal seminato e scrollarsi di dosso i retaggi della disciplina che qualcuno, suo malgrado, ha tentato faticosamente di inculcargli. Indovinate un po' a quale di questi due casi appartiene Donatella Rettore. Che mi schioppo le vene. C'è una bambina seduta sulle morbide poltrone di velluto rosso di un teatro. Tutte le altre sedie attorno a lei sono vuote. Sua madre, il volto già segnato da qualche ruga d'espressione, sta lavorando proprio su quel palcoscenico davanti ai suoi occhi. Sua madre sta provando la sua parte perché di mestiere fa l'attrice di prosa. Recita in pièce importanti, spesso si tratta di testi di Goldoni. E le commedie goldoniane non sono certo dei testi a caso all'interno della storia di questa bambina. Goldoni era veneto proprio come lei, che è nata a Castelfranco Veneto l'8 luglio del 1955. I registri dell'ospedale dicono che ha emesso il primo di molti vagiti esattamente alle 13:30. Cancro, ascendente bilancia, votata all'arte ed estroversa fin dai primissimi istanti di vita. I genitori hanno scelto di chiamarla Donatella non a caso. Donatella è un dono per Teresita Pisani e Sergio Rettore. E la loro unica figlia, nata in perfetta salute. Un'eccezione se si considerano i 3 fratelli maschi morti dopo appena pochi mesi di vita. Una creatura preziosa da salvaguardare, così preziosa da impedire in qualunque modo che tenti di spiccare il volo. Mia mamma raccontaci. Era una donna austera, severa, era nobile mia mamma, era una Pisani. Sì. È stata per me un tritacarne. Figurati, in più io sono figlia unica, nata... per errore, infatti Donatella viene da piccolo dono, no? Mia mamma mi ha avuto... era una mamma quarantenne. Da una così complessa storia familiare nasce l'attaccamento un po' ossessivo dei genitori a Donatella. Una figlia desiderata insieme a un po' temuta, un po' come fosse una specie di bambola di porcellana da non voler danneggiare per nulla al mondo. Una figlia avuta in età avanzata. Del resto, a 40 anni nel 1955 le donne erano abituate a diventare nonne. Non certo mamme. Donatella quasi avesse la ribellione nei cromosomi, fin da piccola se ne infischia delle angosce materne. È una bambina precocissima. Ha solo 3 anni quando inizia a cantare al mitico caffè Florian di Piazza San Marco a Venezia. I genitori si siedono a un tavolino per prendere un caffè o un aperitivo e lei cosa fa? Si mette in piedi sulla sedia per far risuonare meglio la sua vocina squillante tra gli specchi e gli stucchi del locale. A 10 anni ha già il suo primo complessino, si chiamano i Cobra. E si esibiscono nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli. Guadagnano 500 lire a serata e si divertono come dei pazzi. La passione di Donatella per le canzonette, naturalmente, non è condivisa da sua madre, che tenta in tutti i modi di contenere l'esuberanza della figlia. E cosa c'è di meglio di un bel collegio per ristabilire un po' di ordine nelle priorità di un adolescente? Per 2 lunghi anni Donatella vive in mezzo alle suore Dorotee. Studio, preghiera e davvero poco altro. Le sembra decisamente un sollievo quando 24 mesi più tardi torna a frequentare una scuola normale, un liceo linguistico di Treviso. Peccato che in quella scuola ci sia un preside poco simpatico. Un uomo che Donatella sbeffeggerà in una sua canzone non appena ne avrà l'occasione. Era solamente una cronaca che mi dovevo vendicare di un preside ottuso. E l'unico mio modo di farlo è mettere in musica e cantare una mia contestazione verso una figura che esisteva, è tuttora vivente, e molto antipatica. Donatella fa tesoro fin da giovanissima di tutte le sue esperienze di vita, fermamente convinta del fatto che un giorno saprà riversarle in una qualche forma artistica. Non è ancora sicura al 100% del fatto che sarà proprio la musica la sua arte prediletta, ma di sicuro in qualche modo sarà capace di esprimere quello che la agita fin da quando era piccola. Fin da quando a malapena era capace di pronunciare il suo nome, eppure inspiegabilmente era già in grado di salire in piedi su una sedia e intonare una serie di note. Nonostante le enormi difficoltà a sottostare alla disciplina, aggravate dall'odio verso un dirigente scolastico un po' troppo invadente nei suoi confronti, Donatella si diploma al liceo linguistico con ben 60 sessantesimi, il massimo dei voti. Il fatto di essere indisciplinata non ha certo a che fare con l'essere intelligente, no? E a lei il sale in zucca non manca. Certo, ama fare tutto di testa sua, ma ragionando, soppesando, costruendosi un preciso itinerario. Una volta chiusa la sua carriera scolastica, Donatella decide di liberarsi dei pesi che hanno gravato su di lei fino a quel momento. E sa perfettamente di non poterlo fare finché la sua famiglia è nei paraggi. Le resta un'unica scelta possibile, quella di allontanarsi, di porre fra lei e le angosce materne abbastanza chilometri da non avvertirne più il fardello. È giunto il momento di andare via di casa. Già, via. Ma dove? Per una ragazza di provincia, a Roma, è il sogno più grande. Ed è lì che si dirige per rischiare il tutto per tutto. E lo farà alla sua maniera, mettendo in gioco se stessa, per quanto scomoda possa risultare. Io avevo appena finito il liceo e era più facile allora toccare dei temi spinosi, fare una sana contestazione che non adesso. Dopotutto è facile negli anni 70 per una ragazza spregiudicata mollare le certezze borghesi della quieta provincia veneta e inseguire la carriera di cantante, correre dietro a un imprecisato sogno di libertà che altrimenti sarebbe irrealizzabile. Non basta la gavetta che ha fatto fino a quel momento, quando ancora frequentava il liceo, quando certe sere, di nascosto dai genitori, saliva sul palco della nuova compagnia di canto popolare che era in tournée dalle sue parti. Il brivido del palco le è rimasto dentro, non c'è niente da fare. È dura emergere, ma lei non ha nessuna intenzione di mollare. E ci sono illustri cantautori che le danno già il loro benestare. Uno di questi, forse il primo in assoluto ad accorgersi del suo talento, è il grande Lucio Dalla. L'ho conosciuto che facevo un festival di voci nuove e la tappa di Riva del Garda. Ho vinto io e lui era ospite, lui insieme a Rosalino, che adesso si chiama Ron, e mi disse: "Uè, te, quanti anni hai?" "17." "Non pensare di mollare, perché te la tua strada è questa." "Va bene." E pensare che Donatella è agitatissima quel giorno sul palco di Riva del Garda. È come se fiutasse qualcosa nell'aria, è come se si giocasse tutto il suo futuro, in attesa di un segno, un cenno di approvazione dall'universo. E del resto, chi meglio di un cantautore affermato può indicare a una giovane inesperta la giusta via? È lui il primo magnifico destino a segnare forse inconsapevolmente il suo splendido futuro di cantautrice. Anche se non lo sai, è la prima canzone mai incisa da Donatella Rettore. La registra nel 1973, lo stesso anno in cui si trasferisce a Roma in cerca di fortuna. Incide i brani finanziandosi come può, spedendo i nastri a tutti i discografici con cui riesce a mettersi in contatto. Ha una faccia tosta, la testa dura, le idee chiare, questa ragazza che ha poco più di 18 anni. È convinta, forse anche un po' per la spregiudicatezza della sua giovane età, che per emergere si debbano toccare anche argomenti scomodi, che per essere attuali non basta essere sul pezzo, bisogna essere in anticipo, immaginare le prossime tendenze. E questo è l'imperativo di chi vuole davvero dettare legge nel campo dell'arte, della moda, della musica. Un attimo prima per essere attuali adesso. E quando Donatella si mette al lavoro per il suo primo album, pensa proprio a questo, alla voglia di fare testi di denuncia. Testi che risveglino le coscienze, che invoglino all'azione. Si mette a lavorare a quattro mani insieme a Mario Pagano, già apprezzato autore di brani interpretati da Milva o Claudio Villa, cantanti di grossa fama, nomi che forse stridono con il suo, che è solo quello di una coraggiosa ragazza di provincia. L'album che scrivono insieme è già maturo. I 10 brani contenuti nel disco, che si intitola un po' provocatoriamente Ogni giorno si cantano canzoni d'amore, affrontano con naturalezza temi scabrosi e difficili come l'aborto o la prostituzione. Altro che canzoni d'amore, insomma. È una cantautrice, sarebbe bene che tu magari la intervistassi, è una buona occasione, no? Un'intervista, così illustri le sue caratteristiche. Che te ne dici, eh? Allora, è una cantautrice, si chiama Donatella Rettore. Vai Renato, vai tranquillo. È ovvio che lei come cantautrice sia bravissima a giocare a biliardo. No. Che sia bravissima nel chilometro lanciato in bicicletta. No. Che sia bravissima a scopone scientifico anche no. nel liceo classico. Che gradirebbe anche un applauso. Magari. Insomma, Renato, mi scuso, ma non è mica un'intervista questa. Maria Giovanna, prego. Questo l'annuncio lo faccio io. Allora, signore e signori, buonasera. Tra qualche istante potrete ascoltare la cantautrice Donatella Rettore in Maria Sole. E ogni giorno per i vicoli e le strade dolore. E ogni giorno sole, sole, sole. Maria Sole. cantautrice. È così che la definiscono presentatori e giornalisti. Lei ne va molto fiera di questo appellativo, le calza a pennello. Si sente diversa dalle interpreti tout court, dalle voci pur melodiose e sofisticate che si limitano ad eseguire un brano scritto da altri. Non importa con quanto trasporto o compartecipazione emotiva vi si dedichino. Scrivere per sé i propri testi, cantare con la propria voce le parole che sono state scritte di proprio pugno, beh, è tutta un'altra cosa. È una diretta emanazione del proprio io. Ci rifletto poco, cerco subito di buttare di getto tutto quello che mi viene in testa. Chissà cos'è quello che passa per la testa di una diciottenne trapiantata da Castelfranco Veneto alla rutilante capitale in cerca di un bel po' di fortuna e notorietà. Ma Donatella non lo fa solo per diventare famosa, sia chiaro. In questo ha preso tutto da sua madre, che faceva l'attrice anche se da nobildonna non ne avrebbe certo avuto bisogno. Come lei saliva sul palco per esprimere la propria interiorità d'artista, così Donatella scrive canzoni per dispiegare i moti del suo animo, per liberarsi, per rinascere ogni volta. In ogni caso, quando c'ho bisogno di sfogarmi, proprio anche fisicamente, di pancia, assolutamente, anche in aereo, anche per strada, anche ai giardini, non lo so, al parco, quando porto fuori i cani. La ragazza veneta trapiantata a Roma sta per intraprendere un altro viaggio. È quello verso una cittadina ligure affacciata sul mare, la città dei fiori, come la chiamano in molti. È lì che negli anni 70 si giocano ancora gran parte dei destini dell'industria discografica italiana. Sul palco di Sanremo, Donatella ci sale per la prima volta nel 1974 per cantare un brano scritto insieme a Mario Pagano dal titolo Capelli sciolti. Anche i suoi capelli sono sciolti quel giorno, anche se ancora non sono di quello sfacciato biondo platino con cui il pubblico di lì a non molto si abituerà a identificarla. Già il fatto di essere sul palco di Sanremo ad appena 19 anni è un bel traguardo. Il resto verrà, molto prima di quanto ci si aspetti. Piangere e non mi ha mai portato un fiore la domenica. Io ero una stupida e aspettavo quello che ogni sera al cielo. I magnifici destini. Donatella Rettore ci ha ricordato il suo primo successo, Maria Sole. Donatella è la nuova, una delle nuove leve della canzone italiana, la rappresenta questa sera. Vediamo insieme alcune note della sua scheda. Donatella ha 21 anni, è nata a Castelfranco Veneto, è cantautrice. Il suo debutto ufficiale risale al Festival di Sanremo dell'anno scorso. L'abbiamo invitata in studio perché è uscito un suo 33 giri intitolato Ogni giorno si cantano canzoni d'amore. Il disco è pubblicato dalla EDB e distribuito dalla RCA. Donatella Rettore ha debuttato a Sanremo nel 1974 cantando Capelli sciolti, pezzo scritto a quattro mani con Mario Pagano, così come tutti gli altri brani che compongono il suo disco d'esordio. Ogni giorno si cantano canzoni d'amore. Un album difficile, fatto di testi impegnati. Un disco che contiene liriche intimiste e di denuncia sociale, parole forse troppo impegnate se messe in bocca a una faccia giovane e angelica come quella della ventenne Rettore. Eppure c'è un nuovo magnifico destino che si affianca al suo percorso nella ferma convinzione che quel viso così puro e quella voce tanto lieve possano diventare molto più graffianti e conquistare finalmente l'attenzione che si meritano. Lui si chiama Claudio Rego e di mestiere fa il musicista. Per ora accompagna Donatella quando si esibisce in TV o in giro per locali, ma a poco la sua figura diventa di vitale importanza nella carriera della Rettore. Ascoltiamo ancora Donatella, accompagnata da Claudio Rego e Re Sole. Donatella Rettore canta 17 gennaio 74, sera. Che riempie casa tua di canti, di festa, di suoni e poi cosa dopo cosa? Anche un po' gelosa dei tuoi amici della vita che tu non dividi con me, accompagnarti alla stazione e poi tornare a casa sola, guardare le finestre chiuse di casa tua. Claudio Rego è entrato nella vita di Donatella già da qualche tempo, da quando i due si sono incontrati un'estate a Taranto a un festival musicale. Claudio allora suonava con un gruppo sperimentale, l'Era dell'Acquario, calco spietato della celeberrima Age of Aquarius del musical Air. Un fricchettone, si direbbe. E invece Rego è una persona molto più posata di quanto sembri, un uomo in grado di analizzare con lucidità i pregi e le qualità di Donatella, esaltandoli il più possibile. Lui vede in lei anche quello che lei stessa di fatto non riesce a vedere. La conosce come le sue tasche, fin dal primissimo momento. Tra l'altro anche un bell'uomo, complimenti. Grazie, sì. E anche un bravo musicista, musicista eccezionale. Lui ha suonato la batteria The Best of the Beast. Che bello, certo che comunque sia, perché il rapporto vada avanti, tu mi insegni, il tuo partner deve amare quello che ami tu a livello professionale, allora. Infatti, delle volte lui... lui è la mente, io sono il braccio. Sì, sì. Lui è la mente e lei è il braccio. Lui compone le musiche e lei scrive i testi. È così, lavorando incessantemente fianco a fianco, che Rego diventa per Donatella, oltre che il musicista d'elezione, anche il compagno di una vita intera. È lui a spronarla e a cogliere tutte le occasioni che le si presentano davanti. E ce n'è una proprio sotto ai suoi occhi. Nel 1976 sembra arrivare l'occasione giusta. Il produttore Roberto Danè la nota e le propone di interpretare, traducendolo in italiano, il brano spagnolo Lai Lola. Vuole lanciarlo sul mercato nord europeo. Il look di Donatella, che da qualche tempo ha tinto i suoi capelli scuri in un deciso biondo platino, attrae le platee nordiche. Durante un passaggio in prima serata sulla TV tedesca, le capita di cadere accidentalmente durante l'esibizione, per poi rialzarsi e continuare come se nulla fosse. Sciagura? Figuraccia? Nemmeno per sogno. L'indomani tutti i quotidiani tedeschi utilizzano l'accidentale caduta affrontata da Donatella con grande disinvoltura come metafora della situazione italiana di quel periodo. Cadere e rialzarsi, insomma. Lo scivolone le fa conquistare una inaspettata visibilità. Il pubblico d'Oltralpe è conquistato da questa grintosa bionda dello stivale che diventa famosa prima in Germania che a casa sua. Ma al suo ritorno c'è un altro palco che l'aspetta. Un palco su cui era già stata un paio di anni prima. Chissà se stavolta a Sanremo non sia davvero la volta buona. C'è un'altra coppia, alla mia destra, gli Albatros. Alla nostra sinistra, Donatella Rettore. Donatella Rettore è una giovane cantautrice, pensate, ha cominciato a 15 anni, dapprima nella compagnia di canto popolare e poi nella compagnia di Lucio Dalla. Ha scritto anche il testo della canzone che ci fa ascoltare questa sera, accompagnata dal gruppo Il Terzo Sole. E la canzone si intitola O Carmela ed è appunto di Rettore Rego. Dirige l'orchestra il maestro Natale Massara. Carmela regalava caramelle colorate, ma erano caramelle avvelenate. È così che comincia il testo del brano che Donatella porta a Sanremo nel 1977, scritto a quattro mani insieme a Claudio Rego. Mentre canta, lancia provocatoriamente manciate di caramelle colorate verso il pubblico, come fossero pugni di riso a un matrimonio. Un testo impegnato, quello di Carmela. Parole che si ispirano alla rivoluzione spagnola, corredate da un'esibizione decisamente eccentrica, certo, ma non abbastanza. Claudio Rego sa che ci vuole qualcosa in più per sfondare. Bisogna usare ancora. Donatella non si tirerà certo indietro. Se io diventassi una posata, una moderata, una che pensa prima di dire delle cose, un po' più ipocrita, beh, non sarei io. Il 1978 è l'anno della vera svolta, quello da cui non si torna più indietro. I capelli sono biondissimi, ancora più biondi di prima. Donatella, magra e slanciata, si presenta sulla scena con un'immagine decisamente accattivante. Abiti luccicanti dalle linee maschili, capelli corti con un taglio geometrico e un disco, Brivido Divino, che arriva nei negozi nel 1979 corredato da un packaging davvero peculiare, unico nel suo genere. Il disco è un vinile di colore rosso, foderato da una copertina apribile tramite un taglio trasversale. La copertina, opportunamente piegata, lascia vedere il vinile colorato. Non si era mai visto nulla di simile, almeno non in Italia. E non è solo l'involucro a stupire, ma anche il contenuto. Gli arrangiamenti dei brani sono un trionfo di rock, punk e ska. Finalmente si ruggisce, anziché limitarsi a cantare. Il merito è di Pinuccio Pirazzoli, nuovo magnifico destino incrociato da Donatella sul sentiero per il successo. Sono Rego e Pirazzoli a sostenere e caldeggiare ogni impeto di originalità. Ma un artista, se è un artista è originale, se è un artista però è noioso, è una persona noiosa. E cosa c'è di più noioso, di più conformista dei nomi di battesimo? Non è forse arrivato il momento di liberarsene? Certo che sì. D'ora in avanti il nome discografico, il nome d'arte di Donatella Rettore diventa semplicemente Rettore. E guai a chi si azzarda a chiamarla ancora Donatella. La consacrazione ufficiale di stella del firmamento musicale italiano arriva con la canzone più gettonata dell'estate del 79, Splendido Splendente. Oltre a uno strepitoso successo di vendite, il brano le fa guadagnare il premio Rivelazione a Vota la Voce e il premio speciale della giuria al Festival Bar. Splendido Splendente, il premio speciale va a Rettore! Oramai lascia tutti di stucco questa ragazza dal look strano, diverso dai canoni correnti nel nostro paese negli anni 70, ancora troppo vicino a un'idea trita di Figli dei Fiori che non alle avanguardie alla David Bowie. La Rettore non solo sembra uscita da un fumetto, ma riesce a esprimere a ritmo di rock sofisticate osservazioni in bilico tra il realistico e il trasognato. Il tutto condito con originalità e intelligenza. Una cantautrice autentica, intelligente, bella, aggressiva. Un mix che piace sia al pubblico che alla stampa. Proprio quella stessa stampa che continua a chiedersi con insistenza quale sia il vero significato dei suoi testi tanto accattivanti eppure criptici. È riduttivo dire che Splendido Splendente è una mia creatura, per cui è chiaro che dopo tanti anni vorrei che si capisse com'è Splendido Splendente, quella di dell'adolescente che non si accetta, che si vede grasso, che si vede con il naso storto, che non si sente mai a suo agio. Oppure che non accetta la sua sessualità, che non accetta di essere maschio oppure di essere femmina. Il cambiamento, voler cambiare a tutti i costi, questo è. Splendido Splendente non è un banale elogio della chirurgia estetica, come insinuano moltissimi giornali. Quegli stessi giornali che si scatenano ponendosi domande un po' troppo assolute. La Rettore è un fenomeno passeggero? Le sue provocazioni sono fini a se stesse? Niente affatto. Agli albori degli anni Ottanta il futuro di Rettore si prefigura più splendido splendente che mai. I magnifici destini. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu? Dove passi tu? Dove passi tu? Dove passi tu? Il luccicante edonistico decennio degli anni Ottanta si apre alla grandissima per Donatella Rettore, che ormai è per tutti solo Rettore. Il suo nuovo album, Magnifico Delirio, è un concentrato di rock, ironia e provocazioni che le fa conquistare sempre più visibilità. Il suo look è sfrontato, così come lo sono i testi delle canzoni che scrive, e poi interpreta con studiata malizia. È naturale pensare che i chiari riferimenti sessuali di Cobra siano fatti su misura per creare scandalo e scompiglio fra i ben pensanti. Rettore lo sa perfettamente, le piace da morire. Azzeccare per 2 anni di seguito il tormentone dell'estate è impresa non da tutti, ma riuscirci per 3 anni di fila ha davvero dell'incredibile. Dopo il 1979 con Splendido Splendente e il 1980 con Cobra, Rettore è la regina dell'estate 1981 con Donatella. Un contagioso pezzo ska divertente, ritmato e ballatissimo in discoteca. Le sue performance televisive frantumano i canoni vigenti e sbalordiscono molti presentatori televisivi abituati a darsi un certo contegno sul piccolo schermo. Dopotutto, è normale che una simile forza della natura desti molto interesse anche al di fuori del proprio paese d'origine. A notarla, guarda caso, è proprio uno dei suoi miti di sempre, il grande Elton John. No, è stata proprio una cosa... Io sono sempre stata innamorata da ragazzina di Elton... e dei testi di Bernie Taupin, che sono veramente sì, delle poesie. E un giorno il label manager della casa discografica mi ha detto: ma tu canteresti mai canzoni scritte da qualche altro cantautore? Ah. E ho detto sì, canterei molto volentieri le canzoni di Elton John, però inedite. Ah, però. Questo qui aveva degli approcci col publisher, con l'editore di Elton, e mi è arrivata Remember. Che lui non aveva scritto per me, ma l'aveva scritta per Sinatra, sì, di cui lui è un grandissimo fan, ha scritto per Sinatra, Blue Eyes, eccetera. Per cui io ho cantato una canzone del mio idolo che aveva scritto per il suo idolo. Ecco come nasce una collaborazione illustre. Elton John regala a Donatella una propria canzone scritta niente meno che per Frank Sinatra. E il secondo pezzo? Il Toriani. No, beh, il secondo pezzo si chiama... Remember? Remember? Remember. Remember, vorrebbe dire ricordo. Ti metti a scrivere canzoni anche in inglese? No, questa è una canzone inedita, scritta da Elton John. Ah. È stato sempre uno dei miei sogni, a parte quello di avere successo in Italia, quello di poter fare una canzone del mio idolo, del mio mito, del mio esempio, del mio filo conduttore. Elton John. L'album Estasi Clamorosa, contenente anche il brano Regalatole da Elton John, diventa ben presto disco d'oro. Anche nella veste di interprete pura e non di autrice dei propri testi, il rettore sa dare il suo meglio. Estasi, uno dei brani del disco, diventa la sigla della popolarissima trasmissione Disco Ring, un successo travolgente. Credo molto alle streghe, credo ai malocchi, alle superstizioni, però credo anche in un momento magico che si chiama Estasi. E che viene alla fine di una giornata, quando uno comincia a fregarsene e a dire: ma sì, ma che mi importa, sto così bene con me stesso, che ho voglia di cantare, di sentirmi un disco della Rettore e di andare in estasi a restare con i piedi nel mare. L'estatica Rettore bazzica Londra e le capitali europee. Il suo respiro è internazionale, persino intercontinentale, quando strizza l'occhio addirittura al Giappone per il look del nuovo album Kamikaze Rock and Roll Suicide. Un'altra provocazione, con l'incitazione al suicidio di Lamette. Ma anche la focosa e provocatrice Rettore è capace di darsi una calmata quando serve, e la veste in cui la ritroviamo di nuovo all'apice del successo sul palco di Sanremo nel 1994 è quella di una elegantissima signora bionda in abito lungo, intenta a intonare note d'amore. Di notte specialmente. Grazie Pippo! Rettore! Eh? Ti strapazzo! Il microfono! Tra gli svariati passaggi sul palco di Sanremo, tra le molte collaborazioni illustri che spaziano dagli Statuto agli Elio e le Storie Tese, tra i tour benedetti dalla presenza massiccia di un pubblico sfegatato e affiatatissimo, la carriera di Rettore procede per decenni all'insegna di un'alterità rispetto alle vie tradizionali. Provocatrice per vocazione, eppure fedelissima compagna dello stesso uomo, l'inseparabile musicista Claudio Rego, per una vita intera. Donna capace di cantare temi scabrosi, così come tenere e struggenti liriche d'amore. Di stupire, con il suo portamento regale abbinato alle mise più stravaganti e inconcepibili. Rettore non sembra essere mai stanca di reinventarsi. Chi si ferma è perduto, in un certo senso. Non la maturità, ma la vecchiaia, l'anzianità è un traguardo, l'età è un traguardo, non è un limite. La pigrizia è vecchiaia. Instancabile, iperattiva al punto da produrre scintille, così splendida splendente da risultare addirittura incandescente. Io sono una che prende fuoco, non lo so, sono infiammabile, non sono ignifuga. We'll be right back. mai sentito parlare della